Le piacevole notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Favola quarta postuma dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Favola quarta postuma. Bernardo, mercatante genovese, vende il vino con acqua e per volontà divina perde la metà di danari. La favola raccontata da questa mia amorevole sorella mi riduce a memoria quello che intervenne ad un mercatante genovese, il quale, vendendo il vino con acqua, perse danari e quasi di doglia volse morire. In Genova, città preclara e molto dedita a mercatanzie, trovavasi un Bernardo della famiglia Fulgosa, uomo avaro e dedito agli contratti illiciti. Costui deliberò condurre in Fiandra una nave carica di ottimo vino del Monte Folisco per venderlo ivi gran prezzo. Partitosi adunque un giorno con buona ventura del porto di Genova e prosperamente solcando, giunse nelle parti di Fiandra, dove, gettate l'ancore, fermò la nave e, sceso in terra, accompagnò il vino con altrettanta acqua, sì che d'una botte di vino ne fece due. Il che fatto, levò le ancore e, veleggiando con buono e prosperevole vento, giunse nel porto di Fiandra. E perché ivi era gran penuria di vino, gli abitatori comprorono il detto vino a gran prezzo. Laonde il mercatante, empiuti due gran sacchetti di scuti d'oro, e grandemente allegrandosi, di Fiandra si partì, ritornando verso la patria sua. Bernardo, poiché fu bonamente discosto da Fiandra, ritrovandosi in mezzo al mare, pose quei danari sopra una tavola e cominciò a noverargli, i quai, contati, ripose nei due sacchetti e strettamente legolli. Fatto questo, ecco che una simia che era nella nave si sciolse dalla catena e saltò sopra, e tratti dalla tavola i due sacchetti, rattamente ascese l'arbore della nave, entrò nella gabbia e cominciò a trar fuori dinari di sacchetti, non altrimenti che annoverargli volesse. Il mercatante, temendo di perseguirla, over di farla seguitare, acciò che adiratasi non gettasse gli scudi nel mare, stava di malavoglia tutto addolorato e quasi era per rendere lo spirito. Né sapeva che consiglio prendere, o di andare a lei o di rimanersi. E stando in questo dubbioso pericolo, parvegli finalmente essere il meglio sottoporsi alla volontà dell'animale. Ma la simia, slegati gli sacchetti e traendo fuori gli scudi e riponendoli dentro, poi che li ebbe maneggiati un gran pezzo, ripostili nei sacchetti e legatili, uno sacchetto ne trasse nel mare e l'altro al mercatante sulla nave. Come significar volesse che quelli danari che erano stati gettati nel mare s'erano acquistati per l'acqua posta nel vino e gli altri dati al mercatante erano quelli del vino. E così l'acqua ebbe il prezzo dell'acqua e Bernardo del vino. Onde, vedendo egli ciò essere intervenuto per volontà divina, si racquetò, pensando che le cose di malacquisto non sono beni duraturi e se avviene che le goda il patrone, non le gode l'erede. Fine della storia. Ingegnosa fu la favola d'Arianna raccontata e da tutti fu laudata molto. Indi, avuto il segno dalla signora che con l'enimma seguisse, in tal maniera disse: quando penso che io son sì ben fornita di denti della lingua e non sezzossa, e che in luogo mi son sì stabilita che masticarne ragionar non possa, sempre vi sarà dura la mia vita. Per me m'accuso a dirvi mi son mossa, ch'a mezzo un buco e chi talor mi ficca, ma tosto o chi il me tragge e fuor li picca. Questo enimma diede molto che dire, non però fu d'alcuno inteso, salvo da Isabella, la quale disse altro non significare se non la serratura, la quale ha denti e lingua, ma non ha ossa, né può mangiare, e chi la ficca è la chiave, che spesse volte apre la cassa, e chi la tragge fuori della serratura la picca a qualche chiodo. Fine della favola quarta postuma dell'ottava notte.